là. Tutto biondo, tutto biondo. Tu sei Marco. Ciao Rolè, era acceso soggiorno, ma non ho sentito niente. Io sto qui, sto andando adesso in cucina a mettere qualcosa in pentola, l'ho sentito te chiamando. Ok, no, c'era qualcuno sotto basso, Santiago 7, boh, non so chi sia. Ah boh, ieri ho sentito anche propagazione, discreta, in FM. Non ho capito la roba però. Vabbè roba, io sono andato a salutare, boh, dai, sto facendo roba in cucina, cioè devo iniziare. Ci sentiamo quando capita, ciao ciao. E fai con comodo, non c'è problema. Comunque la Grecia ieri in FM, un fortissimo, il canale 12, a fondo scala arrivavano qua. Vabbè, prosegui, buon proseguo, dai. Ti ho lasciato un attimo di via. Scusa già, non mi sono reso conto. Ciao, buonasera, no, era una... sto scherzando. Buonasera a tutti voi. Ciao Gian, che abbiamo parlato per 10 secondi consecutivi perché se ne sta andando, ha detto che sta facendo la cosa, che Bianco. E non parete manco fiato, cazzo. Ma sto scherzando, perché non c'è problema. E niente. Buonasera comunque. Buonasera, no, ho fatto chiamata generale, non c'era nessuno, mi ha risposto lui che stava andando a mangiare e poi sei entrato tu e boh, ho detto che c'era uno Santiago 7 che non so da dove venga, forse qualche paesino o propagazione. Ok, avvocato il mic. E anche poco fa c'era una propagazione, una bassina e si sentiva poco. C'è un bel di brusio sotto già. Gianni Bricella. Vai Cavalletta. Gianni Gargamella. Buonasera. Salut. Ti sei trovato bene l'altro giorno? Ieri, sì, ciao Robè, sì, a voglia. No, aspetta, manco molto, la diavola bene, dai. La pasta cosa hai preso allo scuro? No, cozze e vongole. E comunque io prendevo quella roba lì, non so se frutti di mare, secondo me prendevo sempre calamari, patatine. Già va bene, dai. Di uso la trasmette già, prima che ti si bloccava ogni paranoia, perfetto, va. Questo non dà nessun segno di anomalia, perfetto, va benissimo, bene. È bello nuovo, cazzo. Infatti tu, mi sembra strano che era il baracchino il problema. E lo trasmette, adesso devo cambiare quello dell'altro typo, che quello lì è un po' inchiodato lo stesso. Mai l'avranno manomesso, vabbè, a parte che è un po' giallo. Mi sa che ci metto provvisoriamente quello che c'era qua, ma lui si inchioda lo stesso, vabbè, non ha senso, va. Vabbè, adesso vediamo cosa fare, dai. Avanti Robè. Sì, ciao Luto, ho salutato, non so se mi hai ascoltato. No, stai dicendo Gianni, c'è un zio sotto, forte, me già. Io? Umbè. C'è un zio, è vero, sono tipo alternata. C'è il microfono, che ne so. Non è alimentatore, non è rumore di vento, è proprio rumore d'alternanza. È alternanza! Alternanza! Ma forte! Si sente abbastanza, dai. La voce lo supera, però sotto si sente. Ma è, siamo a fare chi, diciamo, di tanti anni. Segaci. Vabbè che non c'è acqua, vabbè c'è una sciacquata così, siamo puliti. Vuoi andare a mangiarmi ogni tanto, non è che ne vado matto, sono qualche anno che non ne mangio. Il kebab lì in via Mendola. Pucci che è. Kebab Marrakesh. Salone Caffetti. Robè. Anch'io non è che. Cioè Maria di Biazumbe. Nel mancolino mangia spesso, però ci mettono questi, diciamo, queste salse buono, questo piccante, un piccante a brucia culo proprio, non so se è la parola. Ah, ma capirello, che schifo. A parte che io carne si può dire che non ne mangio niente, solo pesce. Però vedere quella roba lì, babba via, guarda, così mie figlie quando vanno a quel cacchio di cos'è, a mangiare il sushi o cosa del genere. Ah, lo capello, sushi mi piace, pucci, questa roba cruda, no. Ma così è stato un blend di vami, per carità, no. Ma ripeto, il kebab l'ho mangiato qualche anno fa. Adesso vediamo, se no mi prendo un panino che posso prima. Ma tu lo sai se ti vuoi divertire, Ludo, per poi andare e non spendi neanche molto. Vai in via Pettenato, un'altra persona di Piazza Tola al civico, ti fanno delle micro porzioni e ti mettono 6 porzioni diverse di tutti i modi, anche per dire le costolette d'agnello, cosa siciliana, cosa messicana, di tutti i cibi ci sono o 6 o 12 porzioni, sono, ti costa, fare ogni porzione costa 2,50 euro, 2,30 euro, più o meno dai 2-3 euro costa, ma tu cacchio te ne sei bello sazio e ti assaggi delle cose buonissime. Vai, io sono alto 140 grammi con la mia compagna e ho mangiato bene la fritta, ho fatto bene. C'è una cosa già, la birra che c'è, la birra che costava 1 euro la bottiglia, te la fanno a 4 euro la bottiglia allora. Vabbè, questi pussi te la fanno pagare la birra, La birra questi pussi non la fanno pagare. È l'acqua, una bottiglia di acqua 2,50 euro, io da, che finiamo il furto. Cosa roba? Che ti è andata bene, ma l'ha compreso, 140 grammi è abbastanza economico, perché una pasta che ci mangi in due la paghi 12 euro se ti prendi, per dire, quella col coso, come si chiama, cotte e vongole, oppure riso alla pescatora, dai 12, massimo 13 euro, è abbondante la cosa. Dove sei andato, a Pedanieda o Santa Maria o qua vicino a me? Sì, vicino a te, a Carbonazzi. Roba, lo so, non è così, però come dici tu, perché inizi magari una pirofila di quel pasta cose, quello che è, va bene, e ci mangi in due. Io ieri la verità abbiamo mangiato in due, ma c'avevo fame, poi magari abbiamo preso un piatto composto, per dire, e alla fine quei 30-40 euro ti partono, Ma te devi organizzare, per dire, ti prendi un primo e te lo mangi in due, e poi ti prendi un piatto composto in due, ti fai mettere calamari e coso, che con 25 euro hai finito e te ne vai. E devi essere un pochettino attenti di lì, perché parte quando prendi quella, come si chiama, Raffa Napoli, cotte e arcelle sono un po' più piccole, ma se ti prendi una porzione con la Maria e Monti, con le coso, con le, non pasta, mi scusa, non pasta, con le pennette, che te ne dà abbondante di quella roba lì, poi ti prendi un piatto composto in due, oppure una pizza, io molte volte andavo di lì, dimmi fammi una pizza come antipasto e te la taglierò in due, e poi ti mangi un primo, e la voglia viene da mangiare. No, vabbè, io ieri ho speso, allora ho preso le penne rigate, quelle lunghe però, con cozze e vongole, poi ho preso un piatto composto con insalata, vabbè, patate al forno e calamari, poi ho preso 2 bottiglie di birra, poi non so che avevo preso, vabbè, poi mi hanno invitato tramite una, io conosco la padrona perché abita vicino a casa mia, vabbè, il fratello è il padrone, comunque anche lei è padrona, mi ha invitato la, come si dice, la, e vabbè, le cose per digerire, era digestivo, più il dolce, comunque io ho speso quasi 40 euro. Vabbè, ma Luca, hai preso un po' di roba, non è che è abbigliatura, vai al ristorante a vedere cosa ti costa così. Chi conosci? Il padrone vero e proprio è Gesuino, il padrone vero e proprio, poi c'è il figlio, c'è Mario, Andrea, chi conosci? No, Mario, Andrea, Irene, tre li conosco. No, il padrone è Mario lì. Vabbè, ufficialmente lui Mario di Nara può ci rubarlo. Ah, lo so. Non sai di Nara un bel, però che ne hanno tre così, Ma non prendo, se non sbaglio, ho sentito dire ad Alghero. Che avanti? Buonasera. Antonio sono. Ehi, accanto. Non c'è Roberto, Roberto è una gatta da pelare, che accanto. È una gatta da pelare Roberto, ma la sorte, si fa sentire, stesso segnale. E chi? Roberto? Sì, sì, segnale uguale al tuo, già. Vabbè. Vabbè. Già lo conosco già, ma roba di roba di broccesi va a fare da bravo siamo le persone. Sì, però la gente è esagerata, cotta, vai lì, se non posso io grande ci può mangiare in quattro. Guarda, se ti fido non ci mangiamo manco in due, se ti fidi mi. Se me lo butto ma io mangio della rasura che su corso. E mica mano, mi hanno ammutato, io e io non ce la stavo facendo, mangiare tutta quella pasta. Ma sono beccato già, ma se l'hai vista la foto, l'ho messa, l'ho pubblicata, no? Guarda, mi credi che ho mangiato, però non avevo fame ancora. Ma che ne abbiamo mangiato più di Marina, c'avevo fame, perciò quella me l'avrei sparata da solo. Vabbè, io quando sono andati in due, la mia compagna ne ha mangiato poca, la verità. Una giovane è andata quasi tutta io perché mangia pochissimo e basta. E poi ci sono arrivati i calamari e le salita già. E vabbè, comunque già, insomma, per i prezzi che sono, già vabbè, era molto buona, molto molto gustosa la pizza. Avanti, avanti Robert Panantonio, vai. Ciao, ben sentito. Ciao. Ma tu lo sai, Luca, che vendono anche i sughi? Se tu vuoi ti copri il sugo per dire alle vongole, tutte queste cose, farli preparati e te li puoi comprare e portarteli via. Lo so, ho visto che gente ordinava consegna a domicilio, lo so, gente che chiama da casa e si fa portare il pasto. Diciamo, alla fine conviene, sai, come dice Roberto, che ti compri un primo, so, per portare a casa risparmi, certo. Poi se hai altre cose a casa tua, ma un primo lo compri lì e il resto magari lo aggiungi a casa tua, adesso un secondo, poi magari a casa ti mangi la frutta, quello che c'hai, no? Allora così va bene. Però dai, i prezzi alla fine già sono abbordabili, eh. Però la gente, io conosco gente che ha esagerato, questo cosa è un grande, ma quanto lo mangi in due, in tre, in quattro? Se c'ho, perché io avevo fame, ma l'ho mangiato, io me l'avrei mangiato tutto. Lo so, magari ti ha trovato in un momento che avevi fame, però a me mi ha saziato, a voglia. E noi abbiamo preso anche un locale di vino, la volta che siamo andati, era anche buono. Allora, mi sentite? Sì, abbiamo salutato Gianni e Roberto, non tu. Cappa, ma se, non ho capito, ci hanno salutato Gianni e Roberto. Ti hanno salutato Gianni e Roberto prima, non so se li hai sentiti, avanti. Ehi Cappa, salutoni anche da parte mia, Cappa. Ecco qua, mi sembra un po' 87 che la fermo. Ma io sto uscendo bene, sì, aspetta un attimino, scusate. C'ho lo scippatore che è tiepido, va bene, sì, non deve essere bollente. Non va tenuta. Va bene, non deve essere bollente lo scippatore. Luca. Robert. Ma non sei a casa tua? No, negativo. Perché è le 9 più 15, ho un marito, normalmente arrivavi quasi 9.30. Vabbè, qua c'ho l'antenna sul terrazzo, ma già va bene, non mi posso lamentare. Tu arrivati tutti fortissimi, il più forte è Gianni, poi ci sei tu, Robert, poi c'è Antonio. A te ti ho salutato, sono offeso, non mi hai risposto. Capa, perché stavo cambiando radio. Sto scherzando naturalmente, dai. Ma tu vedi con un coso che ti ho fatto passare con una specie di fiorino come bombo, tu? Con la strada, e quando? Mi lamenta assai, va. Non è se arrivano più forte tu, Antu. Mattina che ti ho salutato, cioè ti ho fatto passare e mi ha salutato, mi balli tu. Non me lo ricordo, può essere Robè, può essere. Non mi ricordo dove ti ho visto, ti ho fatto passare a chi non ti faceva. C'aveva una bombola grande dietro pure, un bombolone. Non mi lamento, no. Talmente tante cose. Ok, vai già. Oggi è finito prima, Anto, non sei andato stasera. L'ho dovuto mettere in treno all'alimentatore, si sente un bel vento, peccato, se fosse stata più o meno rumorosa. Ehi, cosa stavi dicendo già che stavo rispondendo a Sara? Ho detto se hai lavorato stasera, se sei uscito prima. Ma quando mai io sabato sera lavoro? E che adesso io ti sto chiedendo se hai lavorato. Ma sabato sera non lavora. Ci sono bombole che lavorano anche la domenica, non è niente di strano. Chi si abbia in culo, non basta tutte le ore che faccio. Già arriva anche la domenica, vabbè, poi ci sono quelli che lavorano, tipo Pala, quello che c'è la terrocce, c'ha il post, fai pagamento col post anche, se non ti vuoi spostare tu, e niente, se, come si dice, lavorano praticamente tutta una settimana, ma così, quando si riposa uno, mai. Vabbè, se c'è il cambio dei dipendenti, già lo puoi fare, lui. Non lo so. Per dire, da noi era così, chi lavorava la domenica riposava per dire lunedì o martedì e al posto suo, oppure la prossima domenica lavorava un altro, era a giro. Beh certo, è come manovale, che la lunedì alla domenica, e quando riposa, no, non ce la puoi fare. Qualsiasi tipo di lavoro alla fine, magazziniere. Beh, magazziniere è un po', insomma, è pesante, ma non mai quanto è il manovale. E che salta a rada già. Perché il lavoro che fa Antonio Risveglia è lui. Sì, vabbè, ma è molto molto più pulito. pulito, capito? È molto, come tu stai messa la polvere, poi i sacchi pesano, quando inizi a prenderne uno, due, poi arrivi a 30, 40, 50 sacchi, a tre pacche le china. Sì, però ho fatto tutta la parata di arrighe alle bombole, avresti baciato una china. Ma ti presenta sempre le mani uguali, fidati. È più pesante, è più, molto più sporco. Molto più sporco. Vabbè, brutto è brutto, però alla fine come pesantezza. Ma capisci, sono già si qui valgono tutti. Che so che arrendi blocchi tutta la di, ti voglio vedere. Ho imparato in mia mano tutta la di. Io so qualcosa, lascia perdere tu. Che arrivi a casa, chi fa giro, ma appena fammi la doccia. E a di A. Ma che vuol dire? A dire A. Cioè infatti la doccia è cuccati, ti è la schiena proprio cappucci. Guardate se c'è ancora questa fermata, dai, vediamo un po'. Piace senza parlare? No, se non è più. Oh, negativo, non ce l'hai più adesso. Siamo rimasti allora già. Il microfono. E lo fa il tap. Questo qua non lo fa, questo qui è l'Eco Master Plus, come la radio. Bella, bella. È migliore del canaro o peggiore, lo bello. È più nasina questa, poi c'ha questo effetto, ecco, cava nell'ecco. Avanti, cava d'orecchio, tu sei sempre chiuso dell'ecco. Ma questa va bene, è pulita, chiara, anche il tanner è bella, però non la potevo valutare perché c'aveva il rumore sotto, questa è chiara, un pochettino più squillante rispetto al tanner. Il tanner è un po' più ricca di tonalità, però anche questa è bella, mi piace più questa. E anche Luca, quelli che portano il coso, l'acqua in catramata sul tetto d'estate, appunto di mezzodì col coso, col cannello, si stanca. Ah, io ma te, sì, certo. E vabbè, le guaine le portano su con la gru, non le bocchiano a mano, tranquillo. A meno che è un primo piano che ci sta, pesano comunque, o montacarichi, qualcosa le portano su. Però manovale, mamma mia, è pesantissimo. Molto pesante. E se voglio vedere tu andare lì a macchina scalpello facendo tracce. Perché è il forattino che ci sta, ma non lo trovi il cantone. Ui, va. Sì, se non sai ce l'ho che non è pesante il bombolaio, attenzione, è pesantissimo. Ma il cantiere, guarda, ormai per me, secondo me è finita, non ho più gana, ho fatto lo scemo il cantiere, per quanto riguarda la schiena, giocando con i sacchi, adesso non fa. Ma non si gioca con i pazzi. Buonasera, Luca, ho notato un messaggio, l'hai sentito? Il messaggio sta caricando, aspetta. Buonasera Tino. Ciao, buonasera a tutti. Ciao a tutti. Comunque ogni lavoro ha le sue difficoltà, perché anche fare il magazzino, Luca, credimi che non è facile. Quando carichi anche 30 sacchi di pellet in qualche macchina, cose del genere, che viene a prendere il pellet, che lo carichi a mano e non lo carichi in pedana, ti esci la gana. O se lo devi portare all'ultimo piano il pellet, pesa un sacco, capo. Li prendi due sacchi alla volta e pesa, fregatene. Fare le scale e tutto, come le fa anche Antonio, io lo so cosa vuol dire fare le scale qui. Bisogna farlo e basta, bisogna, oh già. Purtroppo se vuoi mangiare così, e cosa vai? Ma infatti. Volere non volere, tocca andare così. Il verniciatore si è sul peggiore bianco della vernice, anzi se adesso magari di meno, ma prima cazzo c'è la gente che diventa pesaurita dall'odore della vernice, si deve fare esaurimento, sempre male di gabbi. Io c'hai già. Cosa? Di nuovo alternata. Lo so, purtroppo da alternata. Come senti con l'MB più 4? Roberto. Forte, molto amplificato, sento un po' le ventole, però è chiara e forte. E Macumari, dai. L'alternata, ti ho abbassato un po'. Ah, se avete parlato in due, cos'è già? Controlla se c'è adesso l'alternata, ti ho abbassato. Non parlare, la sento di sottofondo, prova a non parlare un attimo. Dai, è quasi impercettibile, dai. Guarda adesso. Adesso va benissimo. C'era Tino, non so se mi ha sentito, che l'ho salutato. Avanti Tino. Aspetta che con me, mi stava rispondendo al WhatsApp. E io, domani dorrà più di tanto per sbagliare. Già, ho fatto anche magazziniere per un anno, lì all'Ordingross. Visto qualcosa, Un giorno mi cambiavano corsia. Un giorno la corsia nei liquori, l'altro giorno ancora la corsia, c'è il sale, insomma, tutte queste cose qua, tutte cose pesanti. pomodori e tre ballacche. Un'altra volta ancora nei detersivi, insomma, già lo so, anche quelle pesate, però diciamo che il manovale è sporco, molto sporco, sporco e pesante. Bello sì, quello la sconsiglia, vabbè, c'è anche una magazzinia che per delle furti delle cose di Mattesi. Però io non ho fatto solo magazziniere, ho fatto le consegne a domicilio, ho fatto pesci vendo, ho fatto di tutto, quindi, perché poi fai sostituzioni, eccetera, vedono che vai meglio, di un altro e ti lasciano lì, alla fine mi hanno lasciato in pescheria, però ho fatto di tutto, ho chista, da picchia, cioè portavo la roba, la scaricavo, portavo la merce nei negozi, e non è facile, dai. Ma non stai lavorando già perché tu? No. Lo so già che quello è pesante, sporco anche, non come il cantiere è molto sporco, il lavoro è pesante, poi vabbè ci sono giorni che mai è più leggero, però è sempre sporco, cioè è sempre mezzo alla polvere, è un casino, e poi ci sono giorni che proprio, guarda, quelli super pesanti, quando butti giù i tramezzi per dire, no, devi bucare un garraggio, e carattiro, se magari non è possibilità di usare, cosa ne so, il montacarichi, ce lo devi portare giù nelle scale a due secchi, tu devi mettere di carne di secchi di garraggio. Non so che è pesante il muratore, è sempre di tutto, è uno dei lavori più misurati che ci sia. Se sta buttato lì su allungato, sotto al sole, lavorando, lui non c'ha perso. Quelli che fanno terrazzi, quelli rischiano di prendersi l'insolazione, molto facilmente. Un amico mio se l'ha preso e è andato all'ospedale, ce l'ha vista brutta. Una volta l'ho fatto anch'io quel lavoro, in piena estate, in piena agosto, capito? Perché hanno fatto il tetto di dove lavoravo io, il caparra dove lavoravo io, che praticamente non aveva pendenza, quindi si formava una pozza d'acqua. E praticamente una volta che siamo riusciti a svuotare questa qua, perché lui infiltrava, entrava nel negozio, faceva scendere il controsoffitto in gesso, insomma faceva un bedidale, dovevi mettere il secchio sotto, un casino, alle casse piovendo acqua, un casino, ogni volta che accade, guarda, poi da una parte, poi dall'altra mettendo i secchi perché faceva un bedidale. Beh, fatta sta che più d'estate abbiamo fatto, siccome non voleva pagare l'operaio, e io ho aiutato quello che metteva, io non avevo mai fatto quel tipo di lavoro, eppure mi sono dovuto piegare le mani e aiutare chi metteva il catrame. Buonasera a tutti, Caimano. Chi è? Caimano, buonasera a tutti. Ciao Caimano. Buonasera Caimano. Sì, buonasera, ti sento male, non riuscivo a capire quello che dicevi. Stavo trattando, stai abbasso. Adesso va meglio? Sì, c'è sempre questo vento là sotto, ma no, poco fa non riuscivo a capire il nome. Ermano, poi mi hanno aiutato loro quando hanno detto Caimano, no? Era forse troppo amplificato. Sto provando il microfono. Scusate se devo salvarlo. Come funziona? Parte del vento, lei deve togliere questi due. 9 più 10 da me, dalla mia parte, dove ti trovi? Porto Torres, ho chiamato la radio, mi interessava. No, la radio è forte, è chiara, radio 5, cioè questo è il vento, però adesso va benissimo, chiedo conferma agli altri. Vai Antonio e poi a girare Luca e Gianni. Calma, no, da parte mia vai bene, dai, ti sento abbastanza bene. Calma, avanti Luca. Riprendo. Avanti già. Caimano, 9-5 qua, segnale, la radio 5, dai, va bene, adesso che l'hai abbassata va meglio, aveva ragione Roberto che era un po' troppo forte e si trattava un po'. No, adesso, a parte che a noi non ci disturbi e non c'è nessun problema, quando lui entra non c'è nessun problema, come entra su 12, qua se tutti bene accetti gli amici. Bene, grazie. No, niente, sto sempre provando le polpole, sto guardando qual è quello che mi fa meglio, no? Questo però faccio un po' più sfillante di quello che uso in genere. Ehi, e questo che microfono è? Questo è un microfono a karaoke, però è condensatore, un Behringer sicuro. Ho pagato una cazzata, 30 euro, però è un sfillante, se non ci è sfillante, un po' dall'altro. Sì, va bene, è vero Roberto. Alla grande, ti ascolto benissimo. A parte la ventola, se riesci a eliminare le ventole sei chiaro e pulito come modulazione, no? Vedi che già vanno bene per la voce, naturalmente bisogna adattarli all'apparato. È quello. No, guarda, l'ordinato è un po' tanto. Dammi un controllo a me anche di segnale, visto che tu sei abbastanza lontano. Di radio credo che stia uscendo bene, di segnale volevo sapere. Guarda, il segnale arriva a picchi di sesto, la radio è ottima. Ok, va bene, non c'è problema. Vediamo se Luca è rientrato. Caffa, Luca è rientrato. Come arrivo lì a Porto Torres? Sì. Radio 5 sento lo stesso. Capo, dai, già va bene. Hai fatto qualcosa, migliorato, perché forse il giubbaccio era pure prima, poi. No, vabbè, ho migliorato, già va bene, dai. Capo, avanti già. Riprendo io, come sono le tue condizioni, Caimano? Com'è il tuo nome, perché mi piace chiamare per nome le persone? Emiliano. Uguale, la stessa. Mi sono sentito un'altra volta. Com'è la tua condizione di trasmissione? Antenna e apparato? Come sono di master e sto usando un 440. Però ce l'ho minimo perché sto disturbando. E com'è non usi il 60? Anche se devo dire sta uscendo bene anche con quel microfono. No, effettivamente questo è un MT60, però il modello semplice, senza essere amplificato. Tu lo so. Sto giocando provando di mettere il microfono, perché il suo fa proprio cagare. Ok, no, stai andando alla grande, segnale buono. Ho segnato che c'è a Porto Torres 6 9 più 10, non so quanto ne stai dando, perché io ho più o meno lo stesso apparato, non diciamo i numeri, e arrivo a 7. Tu stai arrivando a 9 più 10, ovviamente stai spingendo parecchio. Sono 10 basta. Anche io la stessa cosa. Allora, con l'antenna magari in ricezione è un pochettino più meno sensibile della mantova. Abbastanza, non sono accorto. Perché trasmissione sta andando alla grande, 9 più 10, il segnale tuo qua. Dalla parte opposta, io sono la periferia di Sassari, zona alta verso lo stadio. Vai a tu. Kappa, no, io sono nella zona più bassa di Sassari, però arrivo lo stesso a Porto Torres, non ne ho problemi. Da coso, come si chiama? Da Antonello arrivo 9 più 5 o 9 più 10, dipende. E Antonello rimane prima di Porto Torres. E ma sarà, come dice, non mi ricordo il nome, sì. Se magari la mia macchina è un po' più in effetto, cioè, la ricezione magari è inferiore. E tu che zona sei, Porto Torres, Emiliano? L'ingresso, sarà lì posto. Ah, ok. No, è buono, il segnale è ottimo. Eugenio non arriva così forte, lo conosce Eugenio? Sì, sì, è mio amico. E abbiamo la sua fantella, abbiamo messo lo stesso periodo. Eugenio è fuori da Porto Torres, però un piccolo sponso rimane, leggero. Più basso di te, Eugenio arriva intorno a 9, 9,5, tu invece arrivi a 9 più 10. Poi ce n'era un altro che arrivava forte, quello che è nella zona vicino al faro, chi è? Claudio, così si chiama? Sì, Claudio. Quello arrivava abbastanza forte, dai. Vabbè, bisogna avere le posizioni naturalmente. Quando le antenne si vedono puoi essere anche lontano, però se le due antenne si vedono non ha necessità di grosse potenze. Vediamo, Antonio, avanti a te il mic. Cappa, no, anche a me mi arriva bene Claudio Nevada, è la verità. Non ho problemi, però il più forte di tutti in assoluto qua è Antonello. Antonello a me mi arriva 9,5, ma una cosa con la radio buona proprio. È l'unico, forse perché lui ha le bidriazze, è l'unico che mi arriva più forte di tutti. Allora anche voi non abbiamo scherzato, dai. Io sono usato ricco degli come sto arrivando lì a Porto Torres? Sei stato lo già? Aspetta, guarda che sei arrivato a sbalzi. Guarda, uno, due, tre. Ah, va bene. Già non stai uscendo bene secondo me, perché stai andando a tratti e poi sei molto compresso. Aspetta, a parte che il segnale non è salito niente, sei rimasto come di prima, 9 più 20 già. Avanti il breve. Ciao Claudio, ben sentito in compagnia mia di Emiliano Porto Torres, Gianni Doppio Rum e Antonio da Sassari. C'era Luca un attimino altino, però si sono spostati. Ti rilancio il mic ad Antonio per il saluto. Cappa, salutoni! E beh, tutto a posto? Cappa, tutto a posto qua. Santiago 7 Radio 5 da Muros, tu, non so come arrivo io lì. KK, già va bene, da, già. L'altro giorno ho sentito tuo padre, ma era un bel basso, era. Vedi che stavo uscendo con pochissimi watt. Ok, aspetta, facciamo riprendere Emiliano da Porto Torres. Avanti Emiliano, per Claudio Di Muro, sono accoppiato, avanti. Ciao Claudio, oggi stranamente ti sento, ma ho migliorato una cosa. Oggi sei Santiago 3, nella radio di 4, buon. Ciao, ciao da Ruggini. Non so come mi stai ascoltando, perché qua tocca più il clarifer del Ruiz. Non lo so se sia quello. Abbiamo detto che sto uscendo Satlo. Vabbè, io sto uscendo lì su lì. Adesso vai bene, già. Il clarifer avevo toccato. Ma lo fa anche la M, il clarifer. Certo, secondo me ha fatto vecchio, che cos'è poi? Certo che sì, già. E lui, aspetta, se lo metto a metà voglio vedere cosa succede, vabbè, lo devo controllare se a metà, mettendo la metà. Non è cambiato niente. E allora è l'altro, dove è questo qua? Ora guarda. Adesso stiamo andando a tratti. Ecco là, è quello lì, dai. Va bene così, dai allora. Ok, avanti Emiliano, a te il mic. Andiamo già, non c'è riuscito per una bella radio, insegna le stesse, lo dici. Cala, cala, dai. Meglio così, dai, faccio qui il Ruiz, diciamo che è un apparecchio un po' vecchiotto, nel senso di anni, perché poi questo qui è nuovo nuovo. Ma base o la veicolata? Base, base. E che Ruiz è? Quello con tre strumenti verdi, ce l'ha presente. Ce l'ho io il Ruiz, quanti ne hai strumenti, tre o due? Tre. L'orologio c'hai tu? Anche. E allora è l'altro modello, io ho quello senza l'orologio, c'ha tre strumenti verdi, le fiancatine in legno, il frontalino in legno e argento. Guarda che l'orologio poi si mette dove c'è i canali e tu basta che premi clock e si mette l'orologio. No, questo non ne ha, e il pace è così che c'è il tasto clock. No, questo invece no, tu c'hai un doppio display come il pace, già la conosco quella radio, è il modello superiore al mio. Ah, è bella comunque. La stavo cercando, c'era un fanello di usi prima, poi la data. Cos'è, 110 o 220 tu? 220 e 12 volt. Ma è stato modificato? Non lo so, ma questo non lo so, a me me l'hanno venduto, l'ho comprato il continente. Il mio è originale americano a 110, c'è un trasformatore etero, l'ho preso alla GBC, un trasformatore lo porta a 220, ma è nuovo fiammato, e mi dillo a Luca, le aveva fatte gli sporti, le fiancatine le aveva fatte Giulio Dollaro, perché erano un po' rovinate, ma se lo vedi sembra uscendo al negozio e coso, e a Luca le avevo dato il telefono, avevamo fatto scambio. Io praticamente non gli ho rifatto nulla, non l'ho manco verniciato perché era proprio perfetto, non c'è un graffio, niente. Ma mazza sono belle radio, anche se devo dire il patch è superiore come trasmissione, questo rimane un pochettino, forse in ricezione è leggermente meglio rispetto al patch che satura un po' rumoroso, però in trasmissione il patch col Turner è la morte sua, anche se sono da un po' che non lo utilizzo. Ok, iniziamo a riprendere Muro, salvate a te il mic. È il 492 mi pare, una cosa del genere, adesso non ricordo come si chiama, e con altri strumenti, non ricordo, quello che c'era da Maracuda era dato tuo padre mi pare, con altri strumenti comunque, c'è la regia. Che fine ha fatto Antonello? Esatto, l'unico difetto che c'è in questo apparecchio è che sceglie tutti a fondo scala, bisogna regolare gli smith. Cappa, ma dov'è la barracuda, che fine ha fatto? Scusate, io vi saluto, che devo andare, mi fate per piacere, alle prossime, ci aggiorniamo, ciao a tutti. Ciao, ci sentiamo, buona serata, ciao ciao. Cappa, salutone Emiliano, ci sentiamo. Beh, Robby, non l'ho più sentito. No, Antonello Barracuda, prima lo sentivo sempre. Non lo so, magari Chiodo Ruggito lo sa di più perché è vicino a lui, io non l'ho più sentito, io so che se l'ha preso l'antenna nuova, magari si ascolta sempre. Io l'ultima volta che l'ho sentito è quel periodo lì, poi non l'ho più inteso, non capisco che sia successo. No, non penso niente, lui sta lavorando adesso, quindi sta lavorando in una casa di riposo. Allora lo sentiremo, sarà così anche per la curiosità, per vedere come arriva Rossi, pure io che non ho mai fatto la prova. Scusate, mi sono allontanato un attimino, non so se mi avete chiamato. Ah, perché ti abbiamo chiamato? No, mi ha chiamato mia figlia, che è arrivata gente. Chi è arrivato qua? Io... Ma, no, chiamo Gianni. Luca è entrato e poi se n'è andato. E cosa, quello di Portatore Gemiliano c'è ancora? No, se n'è andato. Va bene. Hola. Che avanti? Dimmi come segnare adesso, Robè. Nel segnale sei oltre 9.35, cioè quasi 9.35, però sei un pochettino saturo. Grappa. È meglio del mio, Tu sei già? Qua, no, no, adesso sono io. E che era 9.30? Ero io prima, sì, ero io, che ti ho detto quando ti stavo arrivando ero io. No, dopo che hai detto, dopo che sei entrato un altro, chi è avanti? Io sono, ti ho detto, meglio del mio. Ah, ecco che pure devi raccogliere, ma perché ci arrivate allo stesso 9.30 sei tu, Antonio, lui era un po' luzzino più di te. Capa. Ma li ne state spingendo parecchio tutti e due a salire così di segnale, soprattutto Gianni. No. No, curare di tutti e due. Non ci può andare che stessi. Io sono innocente. Sì, che vi denuncio a voi per abuso di potenza. Lo fa prendo con me Gianni, dice che cosa, io sono innocente, non c'ho niente. Aspetta che c'è qualcuno che vuole entrare, avanti chi vuole entrare su 10. Che è avanti? Vabbè, non ha gana allora, vabbè, c'era qualcuno sotto. Riprendi già. E anche il muraviddu. Ma la giusti, anche chi non hai. Tutti e due, cacchio, siete pericolosi voi. Tutti i fari dell'isolato vostra si sono spenti, ne avete tolto la corrente a tutta la luce dell'isolato. Non è vero, non si accusano le persone quando non le fanno queste cose. Aspetta, che sta colato, guarda che questo che ho fatto girare adesso. C'è Chiodo, ancora ci sei, Claudio. Sempre come prima, un peluzzino più alto, però sei leggermente saturo, sei quasi 9.20, 9.15 coi picchi a 9.20, però prima eri 9.15 pieni e non eri saturo. Capita, sta cambiando l'apparecchio, sta cambiando. Sempre accusando, sempre accusando. Non ne ho più. Prima già ce l'avevo un'altra bestia, ma non ne ho più adesso. Aspettate quando piazzo l'antenna, io potenza non uso, lavoro d'antenna, vi faccio niente a tutte e due. Quindi nera, sino a tutta me, a vedere. Qua era inizio al bel tempo, ce l'ho pronta, nuova, dai, da piazzare l'antenna e vediamo un pochettino se facciamo furore anche noi, senza toccare potenza. Attenzione, canale 10, ascoltate questo piccolo doppio rubo. È frusciato. Cappa. Vabbè, è cantennai. Cappa, cantennai alla fin fine. È una direttiva a 4 elementi. Grazie. E appunto non c'è bisogno della potenza, fate conto, quando c'hai 4 dB di coso, 6 dB di coso c'hai 4 volte la potenza, se c'hai 100 watt ne hai 430 in antenna con 6 dB. Vabbè, questo come va, come microfonia, questo microfono l'ho costruito io. Allora, il microfono ti sta portando qualche difettuccio, la radio è chiara, prova a parlare di nuovo, però c'era un difettino, so. Guarda a vedere, 1, 2, 3, prova, adesso ho abbassato. Ma là c'hai ecco, qualcosa so? Non ce l'hai di ecco. Allora, questo qui è un M93 modificato da me. Va benissimo, bella chiara e forte la radio. Poi lo posso anche alzare di più adesso. 1, 2, 3. Allora, 1, 2, 3. No, ritorna come di prima. Sento l'interferenza e poi ti sfotti la radio. Cappa. Anto, tu hai schiacciato a Gianni poco fa, c'è un segnale ancora più forte di lui. Lo so. Io l'altro giorno ti stavo ascoltando una radiolina piccolina, accatta una bomba arrivi, un segnale spaventoso, con la radiolina dentro casa, senza antenna e niente, infatti ho detto, ma cosa va attaccato Antonio? Invece poi sono andato qualcosa, il segnale era uguale con l'apparecchio, l'altro un paio di giorni fa di notte. È logico, ci mangiano. C'è l'antenna, è logico che mi senti così. Sì, no, sto dicendo, prima ti ricordi quando eri giù alla latte doccia, cacca, per tirarti fuori dovevi spingere un pochettino, molto disturbato. Adesso siamo con la radiolina una bomba, cioè io parlo di radio, non sto parlando solo di segnale, fortissimo. E anche Luca non scherzava come, vabbè, Luca l'ha sempre avuta forte e chiara la voce, però tu eri il più forte di tutti in quel momento. Già lo so, già. No, tutti siete qua oltre. E adesso vedete Claudio che da muro su qua arrivano per più 15, quando attacca arriva quasi 20, a tutti gli altri siete dai 9-20 in su. Claudio, da muro, siccome mi ascolti a me, è più o meno lo stesso, dai, più o meno sei 9. KK, dai. Non lo so adesso come arrivo a Muros, un po' meglio va, ho fatto un po' di potenza. Tu sei 8 là, 8, 7 a picchi di 8 e radio 5, dai, già va bene. Sì, allora stai usando perfettamente qua, segnale forte, insomma, il segnale qua in città, benissimo, radio perfetta, non toccare niente, l'ho detto dall'altro giorno, non tocca nulla, come dice Claudio, non tocca, cioè. Io sono sempre più piccolino, mi pare, dalle tue parti, non è così, Claudio. Sì, già lo conosco, un bel radio. Ieri ho visto un video, l'ho mandato anche infatti a un amico, questi radioamatori erano, però non erano CB, ho fatto il collegamento di un Boeing 737 che stava andando a Dubai, hanno fatto il collegamento in 27, in 11 metri, 27, 405 mi sembra la frequenza, uno era in macchina, la radio bellissima questo qui c'aveva, l'altro era a casa sua, uno con l'antenna 40 metri a cordata e l'altro, ma tu devi sentire la stazione, l'aeroplano, che era vicino ad Atene, loro erano in Italia, questo era ad Atene, fatti conto è abbastanza lontano, in 11 metri ascoltando e parlando, ho fatto il video, se c'è tempo te lo mando dopo Claudio. La cosa allucinante, il collegamento di questi qui. Sì, basta andare. Ti sto mandando un messaggio, Robert. Mandamelo. E la cosa bella è che non pensavo che gli aerei riuscissero ad andare in banda laterale sugli 11 metri, pensavo avessero frequenze dedicate le VHF, invece no, c'hanno anche il coso, stava spiegando un po' di cose, questo ha detto non era un radioamatore, non era molto informato, però ho visto che già se ne intendeva, pur non essendo specificatamente inoltrato nel campo delle telecomunicazioni, ha parlato dell'antenna, che tipo di antenna utilizzavano, perché la cosa strana era che ha detto come fa a irradiare, che c'hanno un'antenna circolare dentro una specie di palla da baseball, stava spiegando questo qua. Vabbè, vai anche Gianni, scusa. Non c'è problema, dai, continua a parlare se devi parlare. Tanto tu mani i puntini grammofono. No, comunque è interessante, non lo sapevo nemmeno io che trasmettevano solo sui 10-11 metri. E poi dall'alto è una cosa allucinante che dovrebbe uscire una bomba. E infatti che conta? È sempre un'antenna che fa il coso, il punto di coso, è come le casse con l'amplificatore, tu vuoi avere l'amplificatore più bello del mondo, ma chi esce il suono sono le casse, così è l'antenna. Quello che radia è l'antenna. Lo stesso anche Marco mi ha detto che lui è riuscito a fare anni fa un collegamento con un Boeing in 747 con i 40 metri. Marco Scorpio. Marco ne fa diversi di questi collegamenti. KK. No, stavo pensando che fosse Marco Condor, e poi come ti ha fatto? Marco Condor ha collegato, ascoltato, non collegato, la stazione spaziale internazionale, cacchio. Io fino adesso non è che mi sono messo ad ascoltare nei tempi giusti, ho provato un paio di volte, però forse non era il momento giusto, perché doveva passare a quell'ora lì e non è coinciso perché passa per pochi minuti, per cui non è detto che stavano parlando in quel momento. Però Marco mi ha fatto vedere il video, su YouTube c'è del suo ascolto a Piazza dei Segni, la stazione spaziale. Mi sta mancando la voce, non capisco perché. Comunque questo microfono modificato va bene, mi sta ascoltando in coso, col parlascolta. Se non è fasullo, quello che mi sta dando è una bella radio. Ho detto già, così stai uscendo bene, va benissimo, però molte volte cacchio cambi, quante volte te l'ho detto, così anche Claudio Di Muro, ho detto una volta che trovi l'abbinamento giusto, tieni fondamentale con la radio, poi ogni tanto accendi le altre, ma non sempre tu che andi facendo, io adesso quanti anni ce l'ho questa radio, facendo le corna sta sempre andando discretamente, non dico che sia bellissima, però va per le mie usi va più che bene, microfono è quello lì, qualche volta uso l'altro microfono così per il divertimento, però sempre questa, io non ne cambio di radio. Ma io ne ho diverse, capito? Qui devo far girare, se no si combinano. No, ma io gli abbinamenti diciamo che li ho fatti tutti adesso, ho diverse radio nuove, quindi ho provato anche altri microfoni, altre radio. È normale che devi fare le prove, se ce l'hai da poco non è che le compri per lasciarle di fermo. Però assolutamente d'accordo, però tipo Claudio, che adesso lo rilancio, Claudio da Muro, una volta hai trovato l'abbinamento, le altre le accendi, ogni tanto le dici come sto uscendo, va bene, però la radio di riferimento è quella lì e la tieni come punto di riferimento. Avanti a te Claudio, quella che c'ha lui adesso è una bomba, perfetta, non gli posso dire niente di negativo. Avanti Claudio. Sì, sono d'accordo, come ha detto Gianni, la stessa cosa, è giusto che le fai camminare, perché le radio, i condensatori e tutti i potenziometri, i commutatori, le a muoverli ogni tanto, se no si inchiodano. Però dico, quella radio, questa qui che c'è adesso, tienila come riferimento, ferma, e le altre le accendi così saltuariamente, ma senza toccarla questa la tieni così, sigillata, come ti ho detto, c'è la lacca, bloccata e non tocchi niente, e la radio va più che bene, perfetta. Il campo frequentimetro è buono perché riesci a tarare bene gli antenne, cioè gli apparecchi, riesci a metterli bene in frequenza. E quindi io mi sono uno da poco vendendo, non mi ricordo chi, uno della ZG, ma sono buoni come frequentimetri, io lascio il tempo che trovano. Diciamo, se uno si accontenta vanno bene anche quelli, naturalmente bisogna avere la stabilità dell'apparecchio, perché quelli molte volte ti danno una frequenza non esattamente identica a quella che è reale, però diciamo per fare delle piccole regolazioni, tanto grosse precisioni non sono necessarie per fare questi tipi di apparecchi. Certo, se devi fare cose, apparecchi di un certo livello, a quel punto bisogna usare frequentimetri di qualità. Ok, avanti a te di nuovo Claudio. Capa, ma guarda, io ho preso, sono rimasto meravigliato e contento, ho preso i 203 della ZG, l'ho provato e funziona, che è una meraviglia, guarda, funziona benissimo, funziona, non lo credevo neanche io che funzionasse, l'ho preso così consapevole, magari già è come te, e invece mi misura bene, cavolo, l'ho fatto vedere a una persona che se ne intende, cioè non è che non me ne intenga neanche io, che ha gli strumenti più professionali dei miei, ma ha detto sta segnando benissimo, cavolo, non credevo manco io che funzionasse così bene. C'è Gianni ancora, avanti Gianni. Vabbè, quelli della ZG, io li ho sopravvuti, hanno dato sempre le misurazioni giuste, dai, perché io ho anche c'ho il rosmetro nell'apparecchio e mi segnava le stesse stazionarie che mi segnava l'apparecchio, quindi io suppongo che siano abbastanza giusti. Poi se si rompono, se vanno male come tutti gli apparecchi, posso dare cose sballate, ma quando sono nuovi vanno bene. No, io frequentino me l'ha regalato un carissimo amico da poco, nuovo ancora in scatola, la scatola non c'è ma ancora col cellophane, ieri ne ho tolto proprio ieri il cellophane da davanti, è nuovo fiammante, ma è usato, tolto dalla scatola, ecco, l'ho solo acceso per vedere, questo c'ha la tolleranza sino ai 100 Hz, riesce a leggere, per cui è abbastanza preciso come apparecchio. E poi con uno diciamo ci siamo fatti un po' di scambi con un altro amico, mi ha regalato la cosa che desiderava tanto, il Beard, non so se lo conoscete, il Wattmetro, quello professionale storico che tutti i laboratori di un certo livello utilizzano. Però devo mettermi i tappi, siccome quelli vanno allineati a ogni frequenza di lavoro, devi mettere il tappo in base alla frequenza e in base alla potenza. Io ho due tappi, però sono per bande un po' più in alte, per gli HF non ce l'ho, me lo devono buscare, ho chiesto un po' in giro, così diamo anche dei valori giusti di potenza agli apparati. Vabbè, comunque, ma domani pioggia ha messo, Roberto? Sì, non fortissima, però qualche passata di pioggia è prevista. C'è maestrale pure, ci sarà anche un po' di freddino domani. No, perché devo viaggiare domani, quello. No, non è pioggia forte, però qualche sfruttata già la fa. Purtroppo io aspettavo il fine settimana bella per fare qualcosa, invece è nuda. Oggi rimaniamo a casa, ci mangeremo la solita pizza e vediamo un po'. Vabbè, dai, pensate a stare sereni pure. Cappa, lasciate quello, dai, io vi devo lasciare, dai, ce la risentiamo, salutoni a tutti, dai. Ciao a tutti, ci sentiamo, dai, buona carica quando la fai, buona serata. Cappa, dai, vi devo lasciare, dai, ci sentiamo, Kappa, dai, dopo... leggiti quei messaggi che ti ho mandato, Roberto. E che l'hai mandato? A me non mi è rivenuto ancora. Su Messenger vai. Su Messenger? Sì. Non mi è arrivato niente al tuo. Su Facebook non ci sei. Sì, ma non mi è arrivato. Mi è arrivato un messaggio di un'altra persona, però WhatsApp non a te. Non è arrivato. La foto è la tua. Cavolo. La foto è la tua qua. Ti ho mandato la foto della mia antenna, ti ho mandato. No, non mi è arrivato niente al tuo. Ma che strano. Non lo so, e forse hai sbagliato bassona, cosa vuoi che ti dica? Ma non c'è il mio numero tu? No, non ce l'ho, no. Vabbè, quando capita già te lo mando tramite persona, oppure se passi te lo do, quando sei da me passa te lo do, perché per radio non mi piace da. Beh, è logico, è normale. Va bene, dai che ci sentiamo, io devo chiudere, ci sentiamo, ciao. Ciao Antoine! Saluto io e poi riprendo il cavo. Ciao Antoine, ben sentito dalle prossimine. Anche io tra poco sacco che devo ordinare la pizza, sono arrivato a mezzanotte. Ciao di nuovo Antonio, vai Claudio. Ciao, ci sentiamo. Alla prossimina. Datemi un attimino di bianco e arrivo tra qualche minuto. Scusate un po', vai già. Meglio, vai. KK. Allora, sarai così a modulare o Cla. Pensavo che non entrassi più. Kappa, vabbè no. Vabbè, è così. Cioè, no, infatti non ti avevo più sentito. Ho detto, ma non sta più entrando. Poi è successo qualcosa all'antenna, ho detto. Kappa, beh certo. No, vabbè, già fa compagnia alla radio, specialmente se chiudo per lockdown, vabbè che noi siamo gli unici che siamo bianchi, zona bianca. Io sono preoccupato per mia figlia che è a Bologna, ragazzi, zona rossa, contagio, dutandà, detto scappa, te ne da lì, Emanuele, non ci stare più lì. Ma se c'è una splatter dal 23 che ti sta coprendo, aspetta. Ascolta, che l'ho rigidito, io vado sul 23, se vuoi passare, perché qua c'è un splatter e ho capito chi è, là, è vicino a casa, quindi non posso farne a me. Ciao. Beh, c'è qualcuno ancora? No, mi ho ordinato le pizze, sono andato a fare l'ordine, adesso tra 10 minuti neanche devo andare a ritirarle, dai. Fino alle 8 posso rimanere. E dimmi un po', che è rimasto qua? Eia. E tu devi mangiare, a che la mangi la sera normalmente? E una domanda, ma di lì dove siete voi? Ce ne sono pizzerie? Ma da sport o a tavolino? Solo una ce n'è. Sono buone, no? Nei paesi, diciamo, non è che mi sia, forse qualche volta, però fuori Sassari, molto lontano da qua, in zona di Sassari non ne ho mai preso di pizza, per dire, nei paesi di Muro, su Cargere, Cargere che c'era pizzeria. Sì, oggi già l'ho preso, le pizze le facevano, io parlo tanti anni fa, l'ho preso e ti posso dire erano più che buone. Poi bisogna avere le gestioni, i pizzaioli si hanno cambiati eccetera eccetera. No, io pizza la mangio molto spesso, una volta a minima settimana sempre, poi certe volte anche di più, anche se adesso sto cercando di ridurre i carboidrati. Pasta e cose, solo me lo sto dedicando solo il sabato e la domenica. Gli altri giorni sono già due settimane, non sto toccando pane perché il pane mi stava ingrossando la panza, come si dice. E anche io non diciamo aiutato, non è che l'abbia fatta io personalmente, l'ho fatta forse un annetto fa, però diciamo per la fine è un po' più complicato perché ci vuole, voi lo fate sul forno, in cucina, con le teglie specifiche o vi arrangiate? Sì, no, se ti riesci a fare la giusta cottura già viene bene, non dico identica ma abbastanza buona, bene. Diciamo qualche tentativo devi fare prima di farla simile, non dico uguale, simile a quella che cucina. No, con le teglie in rame, nei forni a legna eccetera. No, io lo stesso anche a Fainè, vabbè questa settimana non mangiamo, ma siamo già diversi mesi che tutti i sabati andavamo da mio padre, il sabato ci stavamo ritrovando di lì, sabato sera a cenare, prendevamo pizza e Fainè a Uffa, eravamo diverse persone, oggi no, perché sono rimango qua a casa mia, ci sono i miei nipoti eccetera eccetera, e mangiamo qua, ci prendiamo delle pizze e basta. Ok, lasciamo un attimo di bianco, vediamo se nel frattempo qualcuno vuole entrare. Avanti sul 10 che vuole entrare. Boh, io sento gente lontanissima sotto, Santiago 5, ma non so chi, non sono quelli di, no non possono essere quelli di Otiri, arrivano sul 7, questi sul fondo, probabilmente qualche segnale a lunghissima distanza. Sì, già va bene, sono belle le radio, ormai a quelli veri lì sono tutte buone le radio. L'unica cosa, purtroppo di questo tipo di radio bisogna stare attenti all'affidabilità, al contrario di altre cose, perché sono talmente condensate come cosa, magari l'alimentazione di una non è sovradimensionata, l'altra c'ha problemi di Smith, l'altra c'ha problemi di PLL, trovare una radio affidabile al 100% non è facile. Adesso con queste digitali, se si rompono, stampa di tutto, perché tutto SMD sono tutte superficiali i componenti, per cui doppia facciata ed è un problema ripararle. Si fa prima come televisore di nuova generazione o cambiare la scheda o buttarcele via. Purtroppo costano ancora tanti soldi, non c'è grande mercato, per cui questi apparecchi, al contrario per dire, della tecnologia vale di un televisore, che c'è tanta tecnologia di quei televisori di nuova generazione, quelli li trovi adesso a 200 euro, prima costavano 2000 euro in rapporto, mentre le radio i prezzi sono sempre alti, qualunque radio HF è sempre alto, devi spendere dai 1000 euro in su, la più economica, se ne arrivare a diverse migliaia, se non dire decine di migliaia di euro, con le stop di gamma. Sì, una grandissima radio, bella, adesso non mi ricordo se a 220, com'è diventata a 220 quella? Medici, una grande radio, ha fatto la storia, diciamo, dei radioamatori, come il 940 della Kenwood, sono bellissime radio, quella costa, usata non la paghi meno di 1000 euro quella radio, è una bellissima radio, c'è un sacco, magari forse un po' troppe manopoline e giocattolini, però è una radio completa, bella radio. E come mai, dico, ma lui come mai utilizza questo tipo di radio? Ma l'effetti 1000, se non sbaglio, c'ha 200 watt quella radio, è una bestia, era il topo all'epoca della IAESU, era l'antagonista del Kenwood, del topo della, si facevano le guerre, la IAESU con la ICOM e con la Kenwood, quella era una grande, e penso che c'è ancora una grande radio, una delle ultime, penso, radio analogiche dell'epoca, erano il topo del topo all'epoca, costavano milioni e milioni di lire quelle radio lì, bella, bella, grande, a me piacciono le radio belle grosse. E poi ci sono tutte le evoluzioni di tutti gli apparati, come hanno fatto il 940, poi hanno fatto il 950, la versione con il coso, diciamo, semi digitale del rispetto al coso, l'evoluzione, diciamo, i primi apparati, diciamo, gli albori delle radio digitali, anche se a me piace molto lo Smitter analogico, diciamo, ad ago, è più carino a vedersi, però diciamo adesso le radio nuove hanno il monitor, ti scegli o lo Smitter tipo diodi a barre fluorescenti, oppure ti metti l'ago, se ti piace l'ago, ci sono un sacco di funzioni, quelle radio di nuova generazione, comunque è una bella radio, ma non sono sicuro, però ho paura che quella radio sia a 220 volt, cioè ci abbiamo alimentato all'interno. No, è delicatissimo, stai attento che se non hai antenna, quella lì, se per te sbaglio tocchi qualcosa, di lì fai danni grossi, no, è a 220, a 12 volt, funziona da 0 a 30 a pisciare le watt, 10-160 metri le watt, sto guardando qua, 200 watt da quella radio, quella è una bella bestia. Poi se c'è la linea col suo alimentatore, con lo speaker, diventa ancora più bellina. E no, la grande radio. Solo che io adesso, caro Claudio, ti devo lasciare perché devo andare a ritirarmi le pizze, sono arrivano fredde. Ti saluto, avremo modo di sentirci in altre occasioni. Saluto a tutti in casa e alle prossime. Cuoretti da parte mia, ciao ciao. Andiamo, cazzo. Breco, breco, breco, breco, canale 12, breco, breco.